1, 2, 3, bentornato Matt. 4, 5, 6, 2 più il mio DJ. 7, 8, ho fatto il botto. 9, 10 è sempre il voto. 11, capo che stasera gioco. Sfreggio sul Q3, sorpasso 3. Pop di 2L, vado 4 per. Tanta roba e cash, mica tanto per. Dato che voglio andare lei pure a Saint-Tropez. Altro che, sorry, scusi, il mio inglese da tourist. La mia tipa è straniera, più fregna di Mila Kunis. Sembra un classico Goonies. Sono un tipo da movies, tipo da baseball Furies. 13, Jason Voorhees. Luigi 14 di sto rap fanno una sega coi pollici. Hey. Tutti sti soldi non sparo colpi, fa sembra che ho messo i codici. No killer, no filter, tu mi porti a sta sul cazzo cock sitter. Voglio fare i soldi per i tipo drug dealer. Pop Sinclair, l'ho ghiacciato pop sickle, sto in top 5. Numeri, numeri, costa merda faccio i numeri. Numeri, scendo in campo faccio i numeri. Numeri, entro in banca conto i numeri. Sto fumando dando i numeri. Numeri, numeri, costa merda faccio i numeri. Numeri, scendo in campo faccio i numeri. Numeri, entro in banca conto i numeri. Fumando dando i numeri. 15 anni e sembra ieri, non mi bastano. Mami, voglio i soldi veri, devo sistemarmi bastiani. Ci sta merda, sono un mostro pacciani. Non mi sposto fino a quando mi mettono i bracciali. Fumo questo panjabi jabi con Davi, sai faremo tanti mani. Non vado in pari, prendo un volo in cali. Flow micidiali, se li vuoi sono 16 pali. Nemici cari, mi ricordo a 17 la figa. A 18 un flow mitra, 19 bocciano, 20 diploma, poi Roma. 21 Tyson, i corve, 22 anni di play. Gioco dal 96, 23 come le gesto dando i numeri. Numeri, costa merda faccio i numeri. Numeri, scendo in campo faccio i numeri. Numeri, entro in banca conto i numeri. Sto fumando dando i numeri. Numeri, numeri, costa merda faccio i numeri. Numeri, scendo in campo faccio i numeri. Numeri, entro in banca conto i numeri. Sto fumando dando i numeri.